getta il tuo pane sulla superficie dell'acqua, che col passare dei giorni lo ritroverai. Metti a parte dei tuoi beni 7 o anche 8, perché non sai quali guai ti capiteranno sulla terra. Quando le nubi sono piene, rovesciano la pioggia sulla terra, e se un albero cade, a sud o a nord che cada, là dove cade resta. Chi bada al vento non semina, e chi sta a guardare le nuvole non miete. Come tu non sai per quale via lo spirito vitale si fa ossa nel seno della donna incinta, così tu non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Getta il tuo seme al mattino, e a sera non dar requie alla tua mano, perché tu non sai quale seme verrà, se questo o quello, o se forse non verranno tutti e due. Dolce è la luce, e bello è per l'occhio guardare il sole. Se un uomo vive anche per molti anni, tutti cerchi di goderseli, pensando ai giorni della tenebra che saranno molti. Tutto ciò che capita all'uomo è vanità. Sii allegro, o giovane, nella tua adolescenza, e nei giorni della tua giovinezza sia nella gioia il tuo cuore. Fa tutto ciò che desideri e che i tuoi occhi vagheggiano, ma tieni presente che su tutto questo ti giudica il Dio. Tieni sgombro il tuo cuore dalla malinconia e tieni lontano il dolore da te, perché giovinezza e adolescenza sono un soffio.